Radio 24 Reportage. Africa. Prima le donne e i bambini. Di Gigi Donelli e Nicola Berti. Equa ha voluto affrontare il tema della mortalità materna offrendo l'assistenza gratuita al parto alle donne di 4 ospedali di 4 paesi africani, in Angola, in Etiopia, in Tanzania e in Uganda. Abbiamo mandato i nostri medici, a un anno di distanza abbiamo assistito oltre 20.000 parti, cioè 20.000 donne che hanno potuto partorire in maniera adeguata e sicura. E quindi parliamo complessivamente di 40.000 persone che sono appunto le mamme stesse e i loro bambini. Per una donna partorire attraverso un cesareo è sempre uno scotto che deve pagare, che non è normale e che è come se fosse meno donna. Quindi questa è la tradizione, per cui molte donne addirittura è il marito stesso o la famiglia, quindi o la sua mamma o la sua suocera che le dicono no, tu non vai perché tu devi essere come donna in grado di partorire da sola. E questo è un qualcosa di culturale contro cui bisognerà lavorare e cercare di cambiare. L'altra cosa che può portare la gente a non venire è proprio questo dover pagare anche l'intervento, eccetera. Tanto è vero che una dei pilastri del nostro intervento è cercare di sviluppare un'equità e per questo momento cerchiamo di pagare, quindi rifondere l'ospedale, dei costi sulle emergenze ostetriche. Bruno Turri, medico chirurgo, 30 anni fa la scoperta dell'Uganda in una prima missione da giovane medico. Il suo ritorno in Uganda lo porta alla guida del progetto Kuama a sostegno della salute materno-infantile. La sua base operativa attualmente è l'ospedale di Aber, punto di riferimento del distretto di Oyam, 300.000 abitanti circa. Siamo nell'Africa rurale, nell'Africa di transito anche tra focolai violenti come il Kivu congolese, che dista solo 200 km a est, oltre il Nilo, ma anche alla frontiera tormentata con il Sud Sudan, bacino quasi inesauribile di profughi, e infine quella interna con la Karamoja, terra isolata di allevatori a perenne rischio siccità. Aber, dunque, fino al 2006 ha vissuto il declino, la paura, la fuga e l'abbandono dalle campagne, lontana altrove davvero dalla capitale Kampala. Io mi sono laureato nell'80 e nell'82 sono partito proprio come scelta di servizio civile e il primo paese dove mi hanno mandato è proprio stata l'Uganda e nonostante poi mi sia fermato per 10 anni, quindi vari contratti a venire col Kuam, è la prima volta che vengo ad Aber. Perché ero stato a Gulu, ero stato a Matani in Karamoja, sono stato in Arua, in West Nile, ma in questa parte dell'Uganda è la prima volta che vengo. Le sensazioni sono contrastanti e sono moltissime, perché da una parte quando uno arriva a Kampala gli sembra che tutto sia cambiato, un grande caos, più tecnologia intorno, solamente i telefonini, tutti i cellulari che circolano, sembra che le cose siano cambiate di un bel po' e anche in meglio, perché poi la gente sta meglio, tante macchine, le strade riparate, ci si può girare nonostante il grande caos e il grande accumulo di persone che sta avvenendo come in ogni grande capitale. Poi man mano che ci si allontana dalla capitale e si va verso le zone rurali ci si rende conto che in effetti grossissimi cambiamenti non ci sono stati. Sì, è vero, ci sono forse meno biciclette e più motorini e quindi questo è anche un segno di benessere che però non sempre arriva a tutti gli strati della popolazione, anzi gli strati più poveri l'impressione che ho è che siano ancora quelli rimasti tali e quali come 30 anni fa. D'altronde poi qui in questa zona in particolare veniamo da un periodo di guerra che è appena finito nel 2006-2007 e quindi con una distruzione sociale che si sta riprendendo adesso, per cui tutte le cose qui sono molto più rallentate rispetto al sud che sicuramente, avendo avuto un grande periodo e un lungo periodo di pace, ha avuto più possibilità di sviluppo. Non so, per dirti, ci sono degli approcci di medicina locale che erano terribili al suo tempo, come quello di togliere i denti ai bambini piccoli quando avevano la diarrea, causando poi delle grosse sepsi che sono ancora tali e quali, e qui se tu chiedi alla pediatra ogni tanto arrivano, e anche spesso purtroppo, bambini in setticemia a causa di questa pratica che non è eradicata, che non cambia nonostante la presenza di educatori sanitari anche a livello di villaggio. Agricoltura di sussistenza vuol dire cotone, banane, fagioli, sorgo, matoke, ma anche patate dolci e ottimi ananas. Poi naturalmente le vacche, qualcuna, le pecore, le capre, i polli, i conigli. Ecco, questa è la vita rurale in quella che Winston Churchill chiamava la perla dell'Africa. Effettivamente l'Uganda è un paese di grandi bellezze e di certo la terra e i fiumi sanno essere generosi. Scarsa invece negli ultimi decenni la stabilità. Tensione ai confini, tensioni tribali, gruppi trasversali e ferocissimi sul modello dell'LRA di Joseph Kony ed eredi, dove tribalismo, riti pagani, soprannaturale, interessi economici, traffico d'armi, tutto si fonde in una peste itinerante che nella più totale imprevedibilità colpisce con ferocia i villaggi, svuotando intere regioni, a volte anche senza un vero e proprio attacco. Stabilità, insomma, una merce di cui noi facciamo persino fatica a cogliere in pieno il valore. Una leva vera e propria che, insieme alla salute, rappresenta il volano della crescita economica che pure molte zone del paese hanno conosciuto negli ultimi 25 anni. Ad aprire il nuovo progetto ad Aber era presente anche il ministro della sanità dell'Uganda, la dottoressa Ondoa. If we look at the 2006 demographic health survey. Possiamo citare il rapporto 2006 dello UNDP sull'Uganda. Se guardiamo la voce salute materna e mortalità al parto, riscontriamo il numero 438. Significa 438 casi di morte della madre ogni 100.000 parti naturali o assistiti. Lo stesso dato 5 anni dopo è nettamente migliorato. Nel 2011 siamo a 310-320 casi di mortalità materna. La prima sintesi che posso fare è dunque questa. La nostra situazione sta migliorando, ma tutto quanto accade molto lentamente e se vogliamo raggiungere gli obiettivi del millennio dobbiamo ancora lavorare molto e raggiungere quota 131, che vuol dire al massimo 131 che muoiono ogni 100.000 nascite. In Uganda la situazione è molto diversa a seconda delle zone del paese. Ci sono regioni dove le distanze e le infrastrutture sono più fragili, l'accesso alla sanità è più difficile e la disponibilità di personale sanitario è minore. Questo è il caso della regione della Karamoja, quella dell'altopiano sulle sponde del lago Vittoria, ma anche tutta la popolazione delle montagne al confine con la Repubblica del Congo. Sono tutte zone dove la popolazione è dispersa e spesso isolata, lontana dai centri maggiori. Sono proprio queste le aree dove dobbiamo lavorare per ridurre la mortalità materna e infantile. Il settore privato finanzia il 42% del sistema sanitario dell'Uganda. Con questo credo capiate bene quanto sia importante il sostegno privato attraverso le organizzazioni non governative. Noi siamo molto grati al QAM per quello che ha fatto e che fa. L'offerta della cura, ma anche la prevenzione, che è un capitolo essenziale per il nostro paese. E poi c'è la componente della formazione, in particolare per quanto riguarda le cosiddette midwife, le levatrici e ostetriche. Per noi è molto importante e io sono convinta che dobbiamo insistere su questa strada, perché ci aiuterà moltissimo a migliorare le condizioni complessive di salute delle donne e dei bambini di questo nostro paese. My dream is for my country to meet the health millennium development goals. Il mio sogno come ministro della sanità, come medico e come donna, oggi è che l'Uganda raggiunga gli obiettivi del millennio fissati per il 2015 dalle Nazioni Unite. La crescita economica del paese è determinata in gran parte dalla salute delle madri e dei bambini. Io sogno una generazione sana, di figli e di madri. Sogno un'Uganda liberata dalla piaga dell'AIDS e anche questo passa almeno in parte dal trattamento della maternità, attraverso la salute della madre e del bambino. generation of children. And this is through the elimination of mother to child transmission, which is part and parcel of maternal and child health package. Un grande percorso, ancora tutto da compiere, come sottolinea dunque il ministro della sanità ugandese, Ondoa. Intanto però un primo risultato, anzi un bilancio di tappa, per così dire, il 15 dicembre scorso a Roma. Il bilancio dunque dalla voce di Don Dante Carraro, che del CUAM è il direttore. C'è stato un calore che ha pervaso tutta la mattinata, ecco, un calore che vuol dire affetto, vuol dire vicinanza, vuol dire condivisione dell'impegno che come CUAM Medici con l'Africa stiamo portando avanti. Ma c'è stata anche molta intelligenza, c'è stata anche molta consapevolezza. C'erano molti studenti di medicina, c'erano molti specializzandi, molti professori. Ecco, assieme a tante altre espressioni della società civile, alle autorità governative, istituzionali e quant'altro. Ecco, il cuore è gonfio di gratitudine, perché questo ci dà fiducia che è possibile affrontare e sconfiggere questo problema. Non lo risolveremo subito, domani, dopodomani, ma abbiamo iniziato la strada e vogliamo continuare a farlo con l'aiuto di tutti. In questo senso c'è un grazie rivolto veramente a ciascuno. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.